Yes, I love it. utilizzano per pagare con la cavalla. E di casa perché non è un padre, che deve fare il padre. Ma non è stato tempo di fare un po' avanti. Ma come vedremo, è già finita la mamma. E di casa è stato comunicato. Grazie a Dio, la mamma, il padre, fatti a tutto. Chi può parlare del padre a tutti? Se non si carica, ma non si carica con voglia. E a tutti, quando è una parte, va a tutti questo. E noi abbiamo la casa, la casa non fa niente, non fa niente, non fa niente, non fa niente, non fa niente, non fa niente, non fa niente, non fa niente, non fa niente, non fa niente, non fa niente, non fa niente, non fa niente, non fa niente, non fa niente, non fa niente, non fa. A tutte le persone che la casa si va a fare la gestione, non c'è un altro toccato perché era un caso di prova un po'. Casa mi sono un cagare di confianza, non c'è un altro toccato. Ma casa mi sono un toccato, ma non mi sono un. Thank you. ये तरह का कैसा बदलवा है उसको देखते हैं बहुत ही you know, what is the matter with her? Talk about it. She said, no. She had a leader of the time. She was a member of the group of the She's a mother of the town. Somebody else is born. Gavin. Somebody else is born there. Somebody else is born there. Somebody else is born there. Thank you.

in the course of the carpet. Okay, in the Grazie a tutti. ఎందుకు నా పాకిస్తాన్ రాష్ట్రం మేము అనుకో 出社税が1枚1万円だったら、社長のコンピューターである。出社税が出社税で社長のコンピューターになるのは、社長のコンピューターになるのは、社 長のコンピューターになるの は、社長のコンピューターになるのは、社長のコンピューターになるのは、社長のコンピューターになるのは、社長のコンピューターになるのは、社長のコンピューターになるのは、社長のコンピューターになるのは、社長